Vi ringrazio di essere venuti, ringrazio le nostre due ospiti che sono già intervenute parecchie volte in biblioteca, e la novità è appunto quella che la biblioteca adesso fa un po' dei viaggi in esterna, e viene qui a Trevi, viene ospitata a Trevi oppure al centro dell'associazione Cristallo, il Teatro Cristallo in via Dalmazia, oppure al Liceo Classico in via Manci. Questo perché abbiamo troppi libri e non riusciamo più a spostare gli scaffali, e quindi per poter ospitare delle iniziative dobbiamo fare un lavoro che non è più compatibile, e quindi abbiamo chiesto di poter lavorare in altri ambienti per le promozioni alla lettura. Non è facile perché è un processo, è un cambiamento che abbiamo affrontato volentieri, ma chiaramente anche con la collaborazione dei colleghi dell'Ufficio Cultura del Centro Trevi, c'è qui con noi anche Carla Spiller, però è chiaro che è un processo lento da avviare, perché le persone che ci conoscono erano abituate a recarsi appunto nella nostra piccola biblioteca, e ora invece ogni settimana la sede è una di queste tre che vi ho citato, e quindi sono molto più capienti, molto più spaziose e confortevoli, ma nello stesso tempo purtroppo non è così immediata questo cambiamento da cogliere. Noi siamo fiduciosi lo stesso, andiamo avanti con le nostre iniziative, ringraziamo sempre Bruna Maria Dalla Govenere che ci aiuta con idee, con la sua presenza, con la moderazione, con i suoi libri. Ringraziamo anche Loredana Repucci che ci sollecita, ci stimola con le sue idee, anche lei con i suoi romanzi, con le sue iniziative. Qui ci sono delle locandine riguardo al premio letterario Il Caro delle Muse, che è già in seconda edizione, è stato un bel successo nel 2014. Noi ci siamo permessi di portare qui alcuni romanzi di Loredana Repucci che sono in biblioteca, altri libri legati al mondo della fisica e ai temi che sono contenuti in questo e altri racconti. Non dimentichiamo che Loredana Repucci è stata così per noi un esempio, in quanto ha fatto un lavoro tra virgolette in un momento dove quello era un lavoro prettamente maschile, una carriera, un percorso di studi che insomma veniva considerato prettamente di dominio maschile. Diciamo che non facevano passare le donne volentieri. Anche lei è un cambiamento, quindi tutto è possibile, e anche Bruna Maria Dalla Govenere si muove sempre sull'onda, non si stanca mai, è sempre innovativa, quindi abbiamo modelli che ci stimolano. Ecco, io vi ringrazio di essere venuti, manderemo le nostre cartoline, i nostri inviti, le nostre mail sempre con l'indicazione della location sì. E andremo avanti così fin tanto che probabilmente troveremo o una nuova sede o verrà realizzata un ruolo bibliotecario. Insomma, si tratta di avere pazienza di qualche anno, insomma, per qualche anno poi vedremo. Grazie, vi lascio. Grazie a te, grazie infinite. Grazie. Grazie davvero, comincio io velocemente, grazie davvero a Valeria perché Maria Trevisan, perché veramente lei è stato un polo importantissimo secondo me per la città di Bolzano, per tutto quello che è lo sviluppo della letteratura, non solo, ma di tante attività. Peccato queste cose, ma comunque purtroppo peccato che siamo pochi, pochi ma buoni si diceva, e parlando di noi due mi viene un po' da ridere perché appunto degli anni e dei decenni, dei cinquantenni, di quello che vuoi tu, mi viene in mente la frase che dicevo prima quando mi hanno chiesto: ma lei signora non si sente vecchia? E io ho detto sì, però la vecchiaia è l'ultimo momento per fare ancora qualche cosa, ragion per cui via che vada bisogna che mi ci metta sotto. Ecco, questo è quanto. Sono molto commossa e molto contenta, veramente commossa nel senso vero della parola, perché Loredana è una mia carissima amica, di presentare questo libro, del secondo libro che io presento di Loredana Repucci. Il primo l'abbiamo presentato, come diceva la direttrice della Claudia Augusta, l'abbiamo presentato appunto alla Claudia Augusta ed era questo libro qui, questo bellissimo libro, Se domani una farfalla, e poi parlerò anche degli altri, stai su, stai lì. ecco, no, non sta. Lo tengo io, non importa. Ecco, parlerò poi dei prossimi libri, parlo anche dei prossimi libri che Loredana ha fatto, e questo è il secondo che io presento, non è il suo secondo, ma di che cosa parla questo libro? A me questa mattina, mentre, non questa mattina, perché io mi preparo sempre per parecchi giorni su una cosa, devo dire che ho già presentato questo suo libro quest'estate in Val di Fassa, a Moena, dove c'era parecchia gente, in verità. Comunque, preparando queste mie poche note, ecco, sono contenta, queste poche note su questo libro, mi è venuta in mente questa frase, la c'è la giustizia, no? Ecco, famosa. Giustizia intelligere difficile è, scrive Agostino, Sant'Agostino. E gli fa ecco il Manzoni, in cui il romanzo, I promessi sposi, è tutto uno spiegarsi sul concetto della giustizia. I romanzi, e questa è la cosa che mi sembrava importante, sovente, quando valgono, e quando valgono il titolo di romanzi, riescono a trasmettere, a comunicare idee, concetti, tanto meglio di alcuni saggi specifici o particolari. E qui viene un po' fuori quello che tu dicevi, in fondo Loredana ha fatto un lavoro diverso da quello che si aspetta dalle donne, un lavoro che poi non ci sono lavori da uomini e lavori da donne, sono assolutamente contrari a questo tipo di discorso. Ma comunque, il libro che oggi andiamo a presentare dichiara già nel titolo quello di cui parla. Il titolo è I giustizieri. Ecco, questo è il libro, voi lo vedete lì davanti, ed è la ricerca di una giustizia attraverso delle persone che si arrogano in qualche modo il diritto di poter giudicare. Ma cominciamo dal principio. Parliamo di Loredana Repucci. Loredana Repucci è una fisica, l'abbiamo appena detto, una matematica, un'imprenditrice, che ha deciso di convogliare tutti i suoi saperi ultimamente nella scrittura. Dopo due libri sentimentali, dice lei, però non direi neanche così, che peraltro hanno avuto moltissimo successo, Pueblo Bianco, porca miseria, scusatemi, il profumo della mirra, meglio che beva. Parla nel microfono così non devi urlare. Ma non urlo, è la mia abitudine, ho fatto scuola 40 anni della mia vita, sono abituata a urlare. Allora, ha cambiato genere, di sé dice, lei, sono al mio quarto thriller, i primi tre si intitolavano Intrigo inquietante, eccolo lì, il verde, Il segreto di Florian Kant, e Se domani una farfalla, che è quello caduto, slack della farfalla caduta. Ed ho scelto delle trame attuali e scottanti che coinvolgono l'interesse di tutti i cittadini del mondo in quanto veri, di temi naturalmente verosimili, che sono accaduti, accadono o potrebbero accadere in qualsiasi momento. Il quarto, questo di cui parliamo oggi, si intitola appunto I giustizieri. E questi giustizieri sono questi personaggi che contestano lo strapotere di un esiguo numero di personaggi importanti nel mondo risoluti a sottomettere l'umanità ai loro spietati progetti di predominio, parole tutte sue. Trame attuali e scottanti, veramente così, espresse sotto forma di romanzo, ma per questo non meno documentato o documentabili. Per la Biblioteca Civica Claudio Augusto, oggi in esilio, anche se dorato, visto che è un esilio, al Centro Trevi, abbiamo già presentato la tematica di Loredana Repucci, quello del raggio della morte. Adesso non parlo di quello che abbiamo presentato, in generale i libri parlavano del raggio della morte, la fusione fredda. Il segreto di Florian Kant invece è una storia di clonazione umana, praticamente. Oggi, di giustizia. Di che cosa parla questo libro? Io non vorrei, non mi sembrerebbe il caso, perché il quarto di copertina è veramente esaustivo e racconta tutto quello che è la storia di una grande famiglia, che si chiama, appunto posso anche leggere, i Radcliffe, che sono una delle famiglie più importanti della Terra, detengono cospicui pacchetti azionari che ripongono al vertice molte potenti aziende del globo. Tale posizione nel mondo finanziario consente alla famiglia, rappresentata dal capostipite Günther, di sedere nel Consiglio Supremo di questo che lei chiama Gold Planet, lobby di potere, che raggruppa le elite economiche e decide le sorti del pianeta grazie a una costante pressione su governi organizzati. Organizzazioni Marcus è il rapollo dei Retri, in passato un giovane playboy, sposato con Erika, da cui ha avuto un figlio, Nathan. Ma questo è praticamente il discorso. Ma cosa succede a un certo punto? A un certo punto succede come dovrebbe succedere, come succede in un thriller, e questo è un romanzo, ed è un romanzo che lei stessa decide come thriller. Sul thriller ma spenderò ancora due parole. Succede che questo giovane Marcus si trova a un certo punto a dover essere il capo di questa grande famiglia, perché i giustizieri uccidono, fanno fuori il padre Günther e la moglie, la matrigna sua, la moglie di questo Günther, e lui rimane, non volendo, anche non volendo, a capo di questo impero. Di questo impero di cui lui in verità sa pochissimo, non sa quasi niente. Però a questa storia, una bella storia quanto volete, però se voi pensate sotto sotto quanto di vero, di reale c'è in questo discorso, che in fondo queste potenti che governano il mondo non ha nessuna importanza di che nazione sia, di che razza sia, niente, sono queste persone che hanno questo importantissimo ruolo di essere i capi di tutto e decidono su tutto, decidono sulla nostra testa, decidono cose che non sapremo mai, cose che non avremo mai capito. E qui molto di più e molto ancora vi consiglio di leggere anche gli altri di questi libri, che sono molto interessanti in altri fattori, dicevo Il raggio della morte, oppure questo della clonazione fredda, che sono veramente fatti, veramente accaduti, dei quali nessuno di noi sa proprio niente. Succede che nessuno di noi sa niente, succedono sulla nostra testa cose che non sappiamo. Succede tutto quello che succede, lo vediamo anche dal punto di vista delle distruzioni climatiche, dei terribili momenti in cui viviamo. Mi è venuta in mente una frase mia, in fondo, che dicevo: questo tema attualissimo in questo novembre di rancori opaco e trasparente. Un romanzo di cui si parla è un thriller, dicevo. Gli elementi primari, e questo forse bisognerebbe anche dirlo, di un thriller sono il protagonista principale, che affronta il pericolo della morte sua o di qualcun altro, la forza dell'antagonista, che deve inizialmente essere maggiore di quella del protagonista, perché se no non regge il discorso, la trama principale, che si concentra su un mistero che deve essere risolto, la costruzione narrativa è dominata dal punto di vista naturalmente del protagonista, che è quello che regge le cose del discorso. Tutte le azioni e i personaggi devono essere credibili e realistici, e avanti così. I temi principali sono cui su cui fondi il genere di thriller sono il desiderio di giustizia, di moralità degli individui. Il protagonista o l'antagonista non devono combattere solo a livello fisico, che se no sarebbe soltanto un genere d'azione, non sarebbe più un thriller, ma anche a livello psicologico. Vabbè. I protagonisti sono spesso cittadini normali, in questo caso non sono normali, sono assolutamente al di fuori della normalità, però comunque sono delle persone in carne ed ossa, e invece nei thriller psicologici fanno affidamento a risorse mentali, eccetera, eccetera, e avanti così. Ma che cosa è in definitiva? Che cosa c'è di tutto questo bagaglio nel romanzo di Loredana Repucci? Oltre alla denuncia, all'accurata ricerca delle fisionomie, dei caratteri dei personaggi, e qui veramente lei è maestra nel dipingere, io proprio ho l'impressione che lei dipinga i suoi personaggi. Questo giustiziere per me è un romanzo di formazione. Questo per me, io l'ho letto come un romanzo veramente, come nella grande tradizione dei romanzi, il romanzo di formazione, perché è la storia di questo Marcus, la cui materia è in fondo una materia brutta, di colui che si trova ad essere in una posizione eccelsa, ma gli arriva, per i motivi più vari, gli arriva quello che può essere il dubbio, e è protetto in qualche modo, aiutato, contornato da quello che può essere, e qui scusate la mia devianza professionale, da qualche angelo protettore. Io ce l'ho con gli angeli, perciò va bene così. Ecco, a questo proposito, ma anche per far godere il potere della scrittura di Loredana Repucci, leggerei due piccoli pezzettini e dopodiché le farei alcune domande, se permetto, perché non voglio dilungarmi troppo, anche perché siamo pochi e perciò non va bene. E comincerei proprio con come si dovrebbe fare nei più bei libri, cominciarei con la parola più, con le cose più difficili. Io faccio anche questo mestiere e una delle cose più difficili è cominciare un libro. Poi dopo magari butti via quello che hai cominciato, lo rimetti in un'altra parte, ne fai un pezzo di qua, un pezzo di là. Ma qui lei dà una spiegazione a Loredana, sarebbe bello che lo leggessi tu. Hai voglia? No. Ho scritto questo thriller dopo aver indagato, come spesso mi accade di fare, molti degli avvenimenti che i media più diffusi non ci dicono, quello che vi dicevo prima. O purgano prima di comunicarceli. Fatti che ci possono scovare, sia pure a fatica, interpellando degli esperti, leggendo e curiosando su riviste straniere, scientifiche o anche semplicemente su internet. I miei romanzi, quindi, prendono vita proprio immaginando le conseguenze che potrebbero discendere dalle azioni tenute strettamente segrete di molti scienziati, politici, governanti e lobby di potere. Alcune di queste vicende sono accadute, di altre si chiacchiera, ma non si sa nulla di certo e potrebbero esserci consumate nel silenzio e nella omertà di progetti classificati tutti però hanno le credenziali che poter avvenire oggi, domani o in un futuro prossimo. Purtroppo di questa sensazione sempre più ci sentiamo partecipi, cioè ci accorgiamo ogni giorno di più che accadono veramente cose che non sappiamo che accadono veramente e non riusciamo a darci una spiegazione di questo. Il desiderio di chi scrive è che il lettore si appassioni alle problematiche del protagonista, le condivida, si immedesimi nella vicenda, provi la sua stessa indignazione o l'amarezza nel constatare la cinica indifferenza di molti uomini potenti ai problemi altrui. Siano essi politici, scienziati o grandi personaggi del mondo economico, troppo spesso uccidono ogni tentativo di intervento che possa riequilibrare le cose. Marcus Radcliffe, l'attore principale di questo romanzo, ma in lui si fondono le delusioni e le aspettative di noi tutti, lo sdegno e la sete di giustizia di cui parliamo spesso con i nostri amici, lo scoraggiamento che confidiamo ai nostri intimi, la determinazione cercando una soluzione quasi sempre impossibile per migliorare il mondo. E più delle volte siamo ignari di ciò che accade, non per indifferenza, ma per mancanza di informazioni, di tempo per andare a cercarle, afflitti nello scoramento per l'unità delle nostre reazioni. Per questo l'evento ispiratore finisce per non essere semplicemente uno sfondo su cui si proietta la trama del romanzo, ma diventa esso stesso protagonista, assieme all'eroe designato, dello svolgimento dei fatti. È quello che accade nei miei thriller, in cui il personaggio principale non è mai un rocambolesco guerriero determinato a invincibile dai poteri straordinari e capace di imprese eccezionali. Non è una specie di Rambo, insomma, che uccide i cattivi e premia i buoni, che alla fine del romanzo riesce a pareggiare i conti facendo giustizia, ma è piuttosto un coraggioso antieroe che deciderà di impegnarsi per tutta la vita a proseguire, forse senza successo, un ideale di equità e di giustizia. Giustizia, che in fondo è un desiderio che davvero tutti quanti noi abbiamo. Allora, a questo proposito, ma anche per fare, come ho detto, ho sentito un pezzettino di questo straccio, ce ne sono altri che vi leggerò dopo se sarà necessario, che raccontano come questo personaggio, questo attore, diciamo, del libro, lei lo chiama così, Loredana lo chiama così, faccia questa sua esperienza infernale veramente, questa discesa agli inferi, dicevo un romanzo di formazione, perché si trova davanti alla morte del padre, al dover prendere in mano questo golden planet di quale non sa assolutamente niente o quasi niente, si trova di fronte a delle situazioni terrificanti, capisce che il potere di questo golden planet è anche quello di fare veramente, di aiutare a distruggere, non naturalmente a costruire. Trova delle cose terrificanti che poi lo vedete nel libro, delle imprese assolute finanziate da loro, che sono produttrici di armi, di morte, di tutto quello che voi volete, e si trova, per fortuna di Dio e dei santi, si trova contornato, affiancato da due personaggi meravigliosi che sono appunto i suoi angeli protettori, i suoi angeli custodi. Uno di questi è una figura molto interessante, spiegata in maniera molto dettagliata e molto, molto raffinata ma anche molto sensibile, è la figura di uno psichiatra che da sempre aiuta questo, come spesso succede in queste grandi famiglie, e qui c'è un piccolo cenno ad un'America anche attuale, ad un'America che naturalmente si fa consigliare dallo psichiatra per tirarsi fuori dai piccoli drammi quotidiani. Lui ha questo amico, che è un vero amico, che lo avvia verso il capire se stesso, e questo capire se stesso nel romanzo passa anche attraverso un momento interessantissimo, secondo me, che è quello di avvicinarsi ad un mondo altro, ad un mondo orientale, l'India in questo caso, la Cina in particolare nel romanzo, qui non, scusate, mi sono espressa male. Ecco, lui va con il suo amico in un monastero buddista, praticamente un monastero cinese, Shaolin, ecco, mi sbaglio perché non sono brava abbastanza, ecco, e lì si rende conto delle sue manchevolezze, si rende conto della via, forse, della via che dovrebbe seguire. E qui più o meno il romanzo ti lascia poi nel risolvere i suoi problemi, i problemi personali con la moglie, con il figlio, con una sua amica d'infanzia e con tutti i problemi che ci sono, ti lascia abbastanza così, ti lascia seguire con la tua sensibilità quello che potrebbe succedere ad un uomo che diventa un illuminato in definitiva, o che va verso l'illuminazione. E una prima domanda te la faccio io: quanto di personale c'è in questa storia, visto che, come si sa, ogni scrittore parla almeno un po' di sé e delle proprie esperienze? Le tue esperienze sono quelle di ricerca dell'illuminazione? No, questa è una parola forse un po' troppo grande, ma diciamo che di solito il protagonista dei miei libri è la persona a cui presto le mie idee, quindi se ho delle idee, delle cose da discutere, da criticare, da condannare oppure da esaltare, è sempre tramite il protagonista principale dei miei romanzi. E quanto a, diciamo, quello che può essere l'esperienza dell'Oriente, in questo caso particolarmente è un'esperienza indiretta, perché ho avuto un carissimo amico, un grossissimo imprenditore, tutt'altro che un santo, che comunque si era trovato da giovane a fare ginnasta, fare, diciamo, delle gare di kung fu, e poi fu portato dal suo insegnante e gli ha detto: tu hai bisogno di stare 6 mesi in un convento Shaolin, e mi ha raccontato un po' questa sua esperienza di questo convento Shaolin, dove si impara non soltanto, diciamo, a combattere, ma non a combattere per uccidere, ma a combattere per utilizzare la forza dell'avversario e vincerlo ritorcendogli contro la sua stessa forza, così come dovrebbe essere anche per le battaglie della vita. Insomma, cioè non possiamo uccidere tutti, insomma, in sostanza i giustizieri, anche se uccidessero tutti, non riuscirebbero a risolvere il problema. L'unica cosa sarebbe quella di riuscire a ritorcere la loro forza a vantaggio nostro, cioè vincere facendo in modo che la loro forza diventi la loro condanna. Adesso non vorrei che fosse sembrasse troppo pesante, è molto... Il libro racconta delle storie abbastanza normali e comprensibili. Ecco, sì, ma... c'è un piccolo, qualche riga che leggerò a pagina 333, che è proprio questa esperienza che fa il nostro attore, il nostro protagonista in questo convento, e dice: parla con un monaco, se non sbaglio, e il monaco gli dice: il corpo è come uno strumento musicale, se non si usa nel giusto modo usciranno solo stonature. In Occidente molto spesso è usato in modo improprio. Ma come sono finito qui? Chiede appunto questo Marcus. Se qualcuno mi avesse detto anni fa: mi sei trovato a dormire per terra, a mangiare riso bollito, nonostante sentirmi così felice, mi sarei fatto chiudere il manicomio. Sei finito qui perché sei flessibile e umile come l'acqua? Rispose: l'acqua. Perché l'acqua umile, flessibile? È umile perché ce ne sta in terra, silenziosa e semplice, polimentando ogni essere, scende, si infiltra ovunque, se è troppa si fa vapore e scappa nel cielo, poi diventa nuvola, ma infine si pente e ritorna qui, sotto forma di pioggia, si inabissa nelle viscere della terra per trovare i rivoli che vanno verso i torrenti, i fiumi, in un lungo viaggio per raggiungere infine il mare, tutto silenziosamente, senza enfasi, l'elemento principale della vita, e noi non la ringraziamo mai abbastanza. Speriamo che sia veramente così, che torni veramente nella terra, perché se va avanti così la storia non va mica bene, no, neanche per noi. No, purtroppo con tutti i veleni che hanno messo, anche l'acqua c'è poco. Anche l'acqua ha poco, ecco. E qui di nuovo il discorso che tu stai appunto facendo con tutti i veleni che hanno messo. Con tutti i veleni, ecco, che hanno messo, e anche sempre fa parte delle... di quelle che possono essere le denunce, diciamo, denunce, chiamiamole così, certo, che faccio, diciamo che qualche volta vengono anche smentite. Colgo l'occasione per dire che quando avevo presentato la farfalla abbiamo parlato anche dell'intrigo e della fusione fredda, e quando ho scritto il libro e anche quando l'ho presentato ho creduto di aver scritto un romanzo che descriveva la realtà al 100%, nel senso che questa fusione fredda fosse qualche cosa, che una fantasia di scienziati un po' folli che volevano fare soldi con queste cose e che poi in definitiva erano semplicemente dei, così, diciamo, dei ciarlatani, ecco, sono stati accusati di questo. Io, a dire il vero, la fusione fredda sono andata a vedermela a Frascati, da quella con cui ho scritto poi il libro della farfalla, che è una scienziata che lavora lì, e l'ho potuta vedere questa fusione fredda. Però sul fatto che poi fosse possibile distribuirla, metterla sul mercato, utilizzarla, beh, su questo qualche dubbio era rimasto in tutti. Tutta la stampa mondiale ha sconfessato questa scoperta. L'anno scorso, proprio nell'aprile del 2013, la Marina americana ha rilasciato un brevetto di esistenza e di utilizzabilità di questa fusione fredda, chiamandola con un altro nome, come per i testimoni scomodi, però diciamo Rubbia, che è il premio Nobel della fisica che tutti conoscete, ha detto questa è la fusione fredda riconosciuta dagli americani, è chiaro che adesso ha acquisito il diritto a esistere e ad essere riconosciuta. Solo che con questo brevetto, anche se noi l'avevamo scoperta magari prima di loro, è proprietà americana, e quindi se la vogliamo usare dovremmo pagare il ticket al... il mio telefono. Scusate, è un telefono che mi avvisa. Niente, non ne comprò. Allora, posso farti un'altra domandina di questo genere? Sì. Poi dopo lasciamo chiedere a loro. Visto che hai parlato di questo altro libro, a me era molto interessato anche il discorso del trigo inquietante. Molto, molto interessante. Che cosa parlava l'intrigo inquietante? Vuoi dirlo ai nostri... Sì, meravigliosi ascoltatori. Sì, praticamente diciamo questa fusione fredda che era stata scoperta e sarebbe un'energia che si potrebbe ottenere proprio veramente con un pugno di dollari, e che può non solo riscaldare ma anche diciamo disinquinare, e costi bassissimi, è possibile darla a tutti, si potrebbe fare praticamente star bene tutto l'universo, tutto il mondo, ed è diciamo un fenomeno un po' strano, ed è stato per questo che non è stato tanto riconosciuto, in quanto la fusione dell'idrogeno, che è la rappresenta, tutti avrete sentito parlare della bomba idrogeno, questa bomba idrogeno per essere innescata ha bisogno dell'esplosione di una bomba atomica, perché deve raggiungere 13 milioni di gradi per potersi innescare. Invece questa fusione fredda, scoperta da due scienziati che in realtà stavano facendo altro e si sono accorti che c'erano dei rilasci di energia e formazione di particelle, questi scienziati hanno scoperto che la fusione dell'idrogeno, ossia l'idrogeno è un atomo che ha dentro esclusivamente un protone e poi fuori c'è un elettrone, ecco, far fondere due di questi, in realtà non proprio l'idrogeno ma un suo diciamo suo, c'è un nome speciale ma non mi viene, Isotopo, esatto. Cioè, c'ha protone e un neutrone e praticamente facendo, e si chiama deuterio, ma è sempre, diciamo, l'elemento è sempre l'idrogeno, fondendosi danno luogo a una, a un atomo di elio, che per questo che si chiama così il Sole, perché è una bomba a idrogeno che continua a produrre praticamente questo elio. Però avviene a 13 milioni di gradi di calore, mentre invece questo riuscivano a farlo a temperatura ambiente. Quindi si poteva fondere l'idrogeno, quindi creare energia per la fusione e certo anche possibilmente nel futuro anche armi, anche come sempre l'energia è sempre una doppia faccia, poteva essere un'energia a buon mercato che poteva servire a tutto il mondo e poteva anche diventare un'arma molto facile da realizzare e diciamo pure anche la paura che qualcuno in una cantina creasse un ordigno diciamo esplosivo e lo potesse portare a spasso nella borsa della spesa e lanciarlo magari in mezzo a una città. Ecco, naturalmente in quel libro lì ci sono tre scienziati che stanno studiando segretamente questo, vengono uccisi anche loro, insomma, sempre il morto, insomma, vengono uccisi tutti e tre in maniera abbastanza strana e l'assistente di uno di questi tre scienziati non crede che sia un suicidio e decide di indagare, ma gliene incolse perché si trova coinvolto in tutta una serie di problematiche. Quindi è quello che dicevo, appunto, la problematica del thriller più o meno che ecco. Questo più o meno che vuole. Ecco, un'altra, come dico, sempre allontanandoci dai giustizieri, ma sempre sulla giustizia è il problema più importante del quale vorremmo parlare questa sera. Comunque, sicuramente anche questo discorso sulla scienza, tu hai detto una cosa bellissima, questi qui facevano altro, e molto spesso succede così, facendo altro trovi altro. Trovi altro. Sì, beh, la scienza ti sorprende sempre. Ecco. E questo bellissimo trovare altro, in definitiva, tornando ad un altro libro, con la storia di Marconi, in definitiva Il raggio della morte, anche lì cercando altro. Lì anche siamo stati profetici con quel libro, infatti poco dopo Antonella mi aveva mandato una mail con un articolo dicendo per quanto fantasia ci mettiamo, la realtà è sempre molto peggiore di quello che noi pensiamo, no? In effetti queste onde elettromagnetiche che in origine aveva cercato di, sì, che aveva scoperto Marconi, poi sono state in realtà molto sviluppate da Tesla, che è stato credo il più grande scienziato di tutti i tempi, e questo aveva scoperto che queste onde, lui diceva, un giorno si potrà piantare un palo per terra e avere l'energia gratis. Figuriamoci, lui lavorava per la Westinghouse, è andato a fare delle proposte del genere, il signor Westinghouse gli ha detto: caro mio, se tu mi fai una roba del genere io non guadagno più manco una lira, perciò smettila di cercare e lavora, eccetera, no? Però quasi tutte le apparecchiature, diciamo, elettriche di cui usufruiamo tutti sono state inventate da queste persone. E anche le scie chimiche, ho saputo di recente che si chiedeva come mai queste scie chimiche che tutti vediamo nel cielo, insomma, hanno inserito delle particelle nei carburanti degli aerei di linea, per non si capiva bene perché cosa, però è saltato fuori che uno scienziato mezzo delinquente ha deciso che questo poteva servire per ripararci dal buco dell'ozono, che non l'abbiamo fatto noi con le bombolette spray come ci hanno fatto credere, ma l'hanno fatto con l'esplosione di non so quante migliaia di centinaia, migliaia di bombe atomiche, che soltanto in America ne avevano sparate 200 in un mese, quindi logicamente questo ha fatto dei grandi buchi nell'universo, diciamo, nell'universo, nella nostra atmosfera. E allora questo scienziato ha detto: ma cosa si fa quando si va al mare, c'è troppo sole, ci fa male il sole? Si apre un ombrellone. Allora facciamo un ombrellone con queste particelle chimiche. Però in realtà con queste particelle chimiche è successo che si sono create delle zone che erano sterili, sono diventate fertili, e vabbè, lì potrebbe anche andare bene. Però ci sono state moltissime zone fertili che sono diventate sterili. E in più tutto questo insieme ha prodotto dei cambiamenti di clima che sono in questo momento piuttosto gravi. Tutti avrete sentito per televisione, ha lanciato un appello all'ONU di sbrigarsi a cambiare, ma cominciare da subito a cambiare i sistemi di utilizzo di energia, petroli, diciamo il carbone, tutto quello che è derivato da queste sostanze, perché ormai siamo vicini al punto di non ritorno. Se non ci si sbriga, ecco, la risposta è stata che cominceranno nel 2030. Ecco, nel frattempo praticamente si è spostata un ramo della corrente del Golfo che arrivava, adesso perché ci chiediamo tutti quanti come mai questo clima, sono 14-15 mesi che non si è più presentata l'anticiclone delle Azzorre. Se avete notato anche voi, adesso abbiamo sempre questo anticiclone africano che viene su, perché non siamo più protetti da questa corrente del Golfo, da questo ramo. La corrente del Golfo aveva tre rami, che due facevano la loro strada e il terzo attraversava l'Atlantico e ridiscendeva lungo la costa, diciamo, atlantica dell'Europa, portando, diciamo, caldo, ma anche creando delle correnti che praticamente, come l'anticiclone delle Azzorre, si predisponevano sull'Europa, in maniera che noi avevamo un clima molto temperato e si riparava, e avevamo anche dei periodi lunghi di bel tempo, di sole e così via. Allora, questo ramo si è praticamente inabissato, e gli altri sono andati a sciogliere il ghiaccio della Groenlandia. La Groenlandia ha perso il 20% del suo ghiaccio. Questa diventa acqua dolce, doveva finire nel mare, essendo acqua dolce sposta l'equilibrio delle correnti calde e delle correnti fredde. Probabilmente ha creato qualche problema tutto questo anche all'anticiclone delle Azzorre, e adesso noi abbiamo un clima più o meno tropicale, nel senso che abbiamo degli acquazzoni terribili, trombe d'aria, diciamo poi vortici e cicloni che non abbiamo mai avuto. Tutti questi erano tipici di certe zone del pianeta. Questo comporta quindi una variazione di clima, quindi variazione delle culture che bisognerà fare, diciamo, per i cibi, e probabilmente ci sarà un sempre più arido sud dell'Europa e sempre più umido e freddo nella zona nord. Questo comunque, diciamo, lo vediamo con i nostri occhi, questa variazione abbastanza violenta di clima, insomma. E già, per cui in definitiva anche il titolo di questo libro che volevamo presentare questa sera, i giustizieri ci vogliono in qualche modo. Sì, i giustizieri però, ci vogliono, bisogna però non possono abbassare tutti, perché non è quella la soluzione. Ecco, quale è la possibilità, così il sogno, un punto che tutti noi cerchiamo di fare formazione dentro noi stessi? E qui tu avevi appunto parlato di questa filosofia. Beh sì, intanto di cambiare per quello che serve, diciamo, la coscienza delle persone, cioè le persone devono rendersi conto che tutti dobbiamo rendersi conto che viviamo in un ambiente, e questo equilibrio è creato dall'unità di questo ambiente. Se non riusciamo, se cominciamo a fare danni di qua e di là, qualcuno, la natura lo sopporta, poi viene il momento in cui non sopporta più niente, insomma, non può essere. La soluzione che io ipotizzo, diciamo, forse ottimisticamente nel mio libro, è che siccome questa lobby di potere che esiste effettivamente, non si chiamano World Planet, ma molti di voi sapranno come si chiamano, questa lobby di potere è costituita da pochissime persone, pare che il 5% della popolazione abbia in mano il 99% del potere economico e finanziario. Allora, essendo pochi, basterebbe che ci fossero 4-5 di loro che decidessero di modificare tutto, hanno potere per farlo. Naturalmente sarà difficile farlo, perché purtroppo il denaro e il potere sono droghe di cui difficilmente ci si libera. Però, ecco, questa sarebbe forse una soluzione che io immagino che potrebbe forse essere ipotizzata nel mio libro, insomma, immagino questa. Però sicuramente, fin tanto che, e questo è un pochino colpa anche dell'ignoranza in cui ci hanno lasciato, perché si tende piuttosto a separare le cose, no? Quelli devono stare di là, noi dobbiamo stare di qua, e questo è mio, quello è tuo, cioè tutte queste cose portano a privilegiare delle piccole parti a discapito di grandi parti. non so, l'Africa è un continente che soltanto il Congo, mi dicevano, potrebbe dare da mangiare a tutto il mondo, però è finito nelle mani di pochissimi e la maggior parte degli africani muore di fame e di sete, quando basterebbe mettervi in qualche pozzo e magari con la fusione fredda creare delle zone energeticamente, diciamo, servite da energia, da questo e da quello, potrebbero sicuramente riprendere la vita coltivando, creando e anche con la dignità di un essere umano che ha voglia magari di inventarsi qualcosa e lo può fare, piuttosto che stare lì a morire così, insomma, di Ebola. C'è qualcuno di voi che vuol chiedere qualcosa a Loredana Repucci? Con queste sue interessantissime osservazioni, io trovo veramente... Io ho letto tutti questi romanzi, ve lo dico, e mi sono piaciuti molto, proprio per questa apertura che ti danno, apertura che può essere letta in tanti modi, ecco, appunto questa speranza, questo così, questa visione particolare del mondo, o questa apertura anche verso filosofie e altre, ma che poi non è tanto diverso, io ti dicevo. No, il fatto di accettare la filosofia unisce, le religioni, scusate se lo dico, dividono, perché partono da sette, e sette vuol dire separazione, quindi la filosofia invece apre anche la fisica in questo. Fa capire come, per esempio, non so, tutti avremmo visto, ci sono delle annate in cui hanno dato veleni da tutte le parti, non ci sono insetti e l'orto non ti fa niente. Allora Einstein ha detto: il giorno che moriranno, che scompariranno le api, morirà l'umanità, perché effettivamente le api sono quelle che fanno un lavoro grandissimo di è tutto un collegamento, non c'è nulla che è staccato da questo. Quando si vanno a fare questi esperimenti strani di clonazioni o anche di anche quando si va su proprio i nostri cibi, che fanno questi cibi transgenetici, eccetera, per carità, io non dico, sicuramente resistono di più al freddo, sicuramente resistono di più alle malattie, però sappiamo noi che cosa comporta ingerire queste cose diverse da quello a cui il nostro stomaco era stato abituato da millenni, sappiamo che cosa succederà cambiando questo, cambiando quello, cioè secondo me dovremmo cercare di camminare un po' di più in punta dei piedi e prendere quello che ci serve, ma non più di quello che ci serve. Ecco, non è una filosofia o una religione di rinuncia, è a che cosa serve avere tutte le banche del mondo, ma quando poi alla fine non ci sono più le persone che comprano, che portano i soldi in banca, che cosa se ne fanno quelli che hanno tutte le banche del mondo, insomma. Se qualcuno diciamo turba questo equilibrio di scambio e di scambio continuo fra la natura, fra gli uomini, le cose, gli animali, tutto ha una sua funzione, è lì e ha una sua funzione, ma non perché c'è stato un Dio che ha fatto questo mondo perché noi vivessimo bene lì, è che noi siamo nati lì perché c'erano proprio queste condizioni che ci permettevano di esistere. I dinosauri sono scomparsi per una variazione di clima di pochi gradi, sono scomparsi dei bestioni che erano grandi come un grattacielo. E voglio dire, anche quando adesso noi dicono attenzione perché stiamo raggiungendo un aumento di gradi di quasi 2 di media sulla Terra, se oltrepassiamo questo limite con molta probabilità succederanno delle catastrofi, si scioglieranno i ghiacci, se uno pensa, a parte che adesso lo sappiamo che si sciolgono i ghiacci, vediamo i poveri orsi che non sanno più come fare a mangiare, però tutta quest'acqua poi da qualche parte va. E quindi tutte le zone in pianura verranno ricoperte da questi, parliamo di tra 50 anni, 100, non lo so, ecco, non voglio dire che sia domani o dopodomani, intendiamoci, però noi stiamo portando uno squilibrio che poi creerà delle reazioni. Ci saranno delle popolazioni intere che scompariranno, che si troveranno male, che vengono fuori malattie che uccidono una quantità infinita di persone, come anche questa Ebola, se ne parla adesso perché sono morti 2 o 3 occidentali, c'è sempre stata. Questa è la purga, diciamo, della Terra nei confronti dell'umanità. cioè dovremmo imparare a vivere nell'ambiente in cui siamo senza strafare in nessun senso, ecco. Io penso che questo sarebbe saggio da parte di tutti, naturalmente con rispetto di tutti gli altri, anche i diversi, ecco. Ognuno naturalmente deve fare la sua parte, non è che ci devono essere persone che si mettono sulle spalle di altri, ecco, questo no. Una piccolissima osservazione così a favore della, diciamo, anche della nostra religione in qualche modo, una considerazione di Tommaso Moro che mi piace moltissimo, che dice che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non possiamo cambiare, che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere. O come quel detto Zen che dice, è tutto lo Zen, appunto, è quello che volevi sì, dire. Esiste un problema irrisolubile, perché ti agiti? E se è risolubile, perché ti agiti? Ecco, se avete qualcosa siamo qui. Volevo chiedere qual è l'associazione che può essere comparabile nella realtà a questo World Plan? Il Bilderberg. Si chiamano? Bilderberg. Si chiamano così perché la loro prima riunione è stata fatta in Olanda, capeggiata dal principe, quando c'era il principe di, che era il capo, e ci sono dentro i Rothschild, cose di questo genere. Hanno fatto una riunione in un hotel di una zona dell'Olanda, e questo hotel si chiamava Bilderberg, e da quel momento li hanno chiamati Bilderberg, insomma. C'è abbastanza informazione, soprattutto ottenuta da traduzione di libri, un libro in particolare scritto da un russo ex, il cui nonno era del KGB, che era riuscito poi ad avere queste notizie. Comunque si sa che ci sono, e purtroppo ci sono diversi strati, no, come spiego anche nel libro, perché per dire, a una di queste riunioni mi pare che si siano incontrati una volta, tanto per fare una battuta politica, si sono incontrati D'Alema e Berlusconi, erano entrambi lì a questa riunione. Berlusconi dice: ma guarda che non mi aspettavo. No, in un'occasione fuori ha parlato male di D'Alema dicendo: ma quello lì è uno che va al Bilderberg. E D'Alema gli ha risposto: guarda che c'è anche tu quel giorno. Per cui voglio dire, ci sono vari strati, ma questi sono i portatori d'acqua per i grandi poteri. Anche il Presidente degli Stati Uniti è gestito da loro, perché chi comanda è chi ha soldi. Allora lì diciamo che gli ebrei sono sicuramente i più ricchi del mondo, no? Posso chiederti una cosa? Un po' di anni fa c'erano persone affini a voi, anche per cultura, eccetera, Boretto, Galli, ne avevamo già parlato, che avevano molta fiducia nella rete. Adesso abbiamo visto che anche quella viene usata per tutti gli strumenti, tutti gli strumenti, come dico, con un martello posso spezzare una noce e mangiarmela, o posso toccare anche la testa a uno. Qualunque strumento ha sempre si presta a un doppio gioco. La rete, secondo me, è una cosa che fa quasi paura per il potere che ha, però bisogna saper distinguere cosa prendere, cosa non prendere. In maniera positiva, però, voglio dire, c'era stata l'idea che avrebbe potuto... Sì, ma questa possibilità, perché c'è sempre qualcuno che sogna, no? Questa possibilità di comunicare a tutto il mondo, che può parlare con tutto il mondo, la possibilità di scambiarsi idee, sicuramente questo è una delle possibilità della rete. Un'altra è quella di fare leva sugli altri tramite la rete, cioè creare... empatia con delle persone, per cui alla fine queste persone ti seguono anche se magari dici delle gran cavolate, insomma. D'altra parte il prossimo libro, com'è? Sarà per il prossimo libro. No, il prossimo libro va in un'altra direzione. Comunque anche la rete è addomesticata. Com'è? Anche la rete è addomesticata, perché anche lì usano degli algoritmi, no? Che ti mette in composition dei temi che magari non hanno quella rilevanza, quell'autorevolezza, e poi però altre cose più genuine o più importanti vengono totalmente messe nella quarta pagina che nessuno cerca. Beh, ma questo è tipico, è proprio fatto parte dei servizi segreti, quando sentono che attorno a un argomento c'è un, lo chiamano rumore, un certo movimento intorno a quell'argomento, automaticamente lanciano una, un'offensiva uguale contraria, cioè nasce tutta una serie di dimostrazioni che quelli raccontano storie, che quelli, quindi bisogna, cioè non si può prendere per buono tutto quello che si trova su internet, ecco, questo sicuramente no. Come tutte le cose però, insomma, poi naturalmente c'è anche il fatto che è servito a tanti per la rete, riesce a risolverci tanti problemi, poter fare a meno di andare a cercare a scartabellare su un'enciclopedia, poter fare online magari il pagamento alla banca o che so io, però insomma ci sono poi anche tutti i lati negativi di queste cose. Insomma. Anche se ci siamo un po' di maschietti, ma del premio letterario femminile. Uno mi ha detto, dice, ma non c'è un premio per soli maschi? Esatto. No, non ne avete bisogno perché vincete sempre voi. Cominciamo. No, comunque diciamo che è nato proprio questo premio per... così si voleva fare un premio letterario un po' nuovo, un po' più mirato, di qualità e soprattutto non... gestito dai poteri forti, non gestito dalla Gold Planet o da chi ci mette i soldi. E allora abbiamo inventato questo premio letterario per sole donne, perché ci sono circa 1800 e passa premi letterari in Italia, poi nel mondo non so quanti, e per donne ce ne sono 4-5, che poi mi sembra che non funzionino neanche più di tanto. E allora abbiamo pensato che uno spazio solo per le donne poteva essere dato, perché non è che ancora siamo considerate proprio alla pari degli uomini. So che ci sono molte, conosco tante persone che lavorano in aziende, hanno responsabilità pari a quelle degli uomini, però il loro stipendio è un pochino inferiore, perché sennò gli uomini si offendono. Scusate uomini. Wow. Non so se sarà così. Comunque questo premio ci ha dato soddisfazione, perché abbiamo fatto la premiazione a Cavalese nel mese di settembre, è sostenuto da diverse associazioni femminili e ci ha dato anche degli ottimi lavori. Abbiamo potuto vedere come ci sono delle persone, comunque riceviamo un sacco di lettere di donne che ci dicono che bella idea, finalmente ho avuto il coraggio di scrivere. Poi ne ho incontrata qualcuna che diceva: ho scritto, ma adesso ho paura, mi vergogno, ho paura cosa mi dirà mio marito, cosa mi diranno i miei figli, insomma. Però diciamo trovano, e quest'anno abbiamo visto che ci sono anche delle bambine che fanno dei bei disegni, delle belle favolette. Mentre eravamo a questa premiazione, una nonna, che era però una musa delle nostre, perché il Carro delle Muse si chiama il premio, questa nonna mi ha regalato un libro che sono le favole che hanno inventato i suoi nipotini e nipotine, e con le illustrazioni la nonna li ha aiutati a metterle bene. E allora abbiamo deciso di fare un settore quest'anno proprio per le piccole muse fino ai 13 anni, anche perché una bambina di 13 anni non potrebbe mai vincere contro una fiaba di una persona che ne ha 20, 30 o anche più. Però nel loro insieme è giusto che abbiano uno spazio dove potersi esprimere. E mi hanno scritto in tante dicendo: ah sì, è una bella cosa, così imparano subito a non farsi mettere i piedi in faccia. Ma insomma, ecco, invece c'è stata una cosa molto interessante a proposito sempre del premio. Una illustratrice germanica, sì, ha fatto mettere il fatto che lei ha vinto il primo premio sul giornale germanico, che ha avuto un grandissimo sì, successo, sì, e molti sono interessati. Questa non è neanche venuta alla premiazione, perché non sapeva di avere il primo premio, ma forse non aveva pensato neanche di venire, e ha preso il primo premio della grafica. Così, e, cioè, ha già fatto molte reclami in Germania. Guardando su internet, vedo tutta una roba scritta in tedesco e mi salta l'occhio il Carlo delle Muse, no? Dico, ma cos'è sta roba? Sono andata a vedere, poi l'ho messo anche sul sito, ecco. Tutto qui, tutto qua. Ecco, signori, per peccato che come siamo, eravamo pochi, ma ecco, come amico, vi ripeto, io vi riconsiglio veramente, perché vedete le tematiche che sono venute fuori, sono tematiche più attuali, lette sotto un certo, naturalmente, sono romanzi, chiaro. Sono certo, romanzi, se no sarebbero estremamente noiosi. Verità, se no sarebbero soltanto noiosi. E naturalmente però, come in tutti i romanzi, il concetto di base è la verità. Anche io che faccio un lavoro completamente diverso, che parlo di tradizioni popolari, le tradizioni popolari non sono campate in aria, credetemi, c'è sempre un fondamento molto, certo, molto vero e molto importante. Non è che tiro l'acqua al mio mulino, era solo perché no, ma è giusto, è tutto qua. Ecco, grazie.